La carrozza si inerpicò più lentamente su per la salita di Rutland Square. Stridor d'ossa, sopra i sassi. Un poverino, senza nessuno. Nel mezzo della vita, disse Martin Cunningham. Ma peggio di tutti, disse Mr. Power, è chi si toglie la vita. Martin Cunningham tirò fuori di scatto l'orologio, tossì e lo rimise a posto. La vergogna più grande che ci possa essere in una famiglia, aggiunse Mr. Power. Pazzia momentanea, naturalmente, disse decisamente Martin Cunningham. Dobbiamo vedere la cosa con un po' di comprensione. Si dice che chi lo fa è un vigliacco, disse Mr. Dedalus. Non sta a noi giudicare, disse Martin Cunningham. Mr. Bloom, in procinto di parlare, richiuse la bocca. I grandi occhi di Martin Cunningham. Ora guarda altrove. Persona umana e comprensiva. Intelligente. Assomiglia a Shakespeare di viso. Sempre una buona parola. Non perdonano qui né il suicidio né l'infanticidio. Rifiutano la sepoltura cristiana. Si usava infilargli un palo di legno nel cuore, dentro la fossa, come se non fosse già spezzato. Eppure qualche volta si pentono troppo tardi, trovati nel letto del fiume, aggrappati ai giunchi. Mi ha guardato. E quell'atroce ubriacona di sua moglie le mette su casa continuamente, e lei gli impegna la mobilia, quasi tutti i sabati. Gli fa fare una vita d'inferno, da far piangere i sassi. Il lunedì mattina ricomincia da capo, sotto il basto. Dio, doveva essere un orrore quella sera. Me l'ha detto Dedalus che c'era. Ubriaca, ballonzolava per la casa con l'ombrello di Martin. Mi chiama la perla dell'Asia, dell'Asia la geisha. Ha guardato altrove, lui sa. Stridor d'ossa. Quel pomeriggio dell'inchiesta, la bottiglia con l'etichetta rossa sul tavolo. La stanza dell'albergo con le scene di caccia sapeva di chiuso, sole tra le stecche della persiana. Le orecchie del medico legale, grosse e pelose. Il lustrascarpe dell'albergo faceva la sua deposizione. Dapprima credeva che dormisse, poi gli vide sul viso come delle strisce gialle. Era scivolato ai piedi del letto, verdetto, dose eccessiva, morte accidentale. La lettera per mio figlio Leopold. Non soffrire più, non svegliarsi più, senza nessuno. La carrozza sferragliò rapida per Blessington Street, sopra i sassi. Andiamo a briglia sciolta, mi pare, disse Martin Cunningham. Voglia è Dio che non ci scodellino per la strada, disse Mr. Power. Speriamo di no, disse Martin Cunningham. Sarà una gran corsa quella di domani in Germania, la Gordon Bennett. Sì, per Giove, disse Mr. Dedalus. Varrebbe la pena di vederla, dico io. Mentre svoltavano in Berkeley Street, un organetto vicino alla vasca mandò loro incontro e appresso una canzonetta stridula, sbarazzina, da varietà. C'è qualcuno che ha visto qui Kelly? K e doppia L Y? Marcia funebre del Saul. È peggiore del vecchio Antonio. Mi ha lasciato nel guaionio. Piroetta. Il mater misericordie. Eccles Street, casa mia laggiù, grande edificio, corsia degli incurabili là, molto incoraggiante, ospizio di Nostra Signora per i moribondi, l'obitorio a portata di mano sotto, dove è morta la vecchia Mrs. Riordan, terribili a vedersi le donne, la tazza e le strofinavano la bocca col cucchiaino, poi il paravento attorno al letto, perché morisse in pace. Simpatico lo studentello che mi medicò la puntura di quell'ape. È passato alla maternità, m'han detto, da un estremo all'altro. La carrozza svoltò un angolo al galoppo. Si fermò. Che succede ora? Un armento diviso in due, di bovini marchiati a fuoco, passò davanti ai finestrini, muggendo, muovendo su zoccoli ovattati, sferzando lentamente con le code le groppe ossute e incrostate. Ai margini e in mezzo a loro correvano pecore tinte d'ocra, belanti di paura. Emigranti, disse Mr. Power. Gridò la voce del mandriano, facendo schioccare la frusta sulle groppe. Passa via. Giovedì, naturalmente. Domani è giorno di mattatoio. Torelli. Caffi li vendeva circa 27 sterline l'uno. Per Liverpool, probabilmente. Roast beef per la vecchia Inghilterra. Si accaparrano tutti più succosi. E poi un quinto perduto. Tutta la roba che non si può cuocere. Pelle, pelo, corna. Viene ad essere una bella somma in capo all'anno. Commercio di carne morta. Sottoprodotti di macelleria per concerie, sapone, margarina. Chissà se funziona ancora quel trucco di scaricare la carne guasta dal treno a Clonsilla. La carrozza si mosse di nuovo attraverso la Mandria. Non capisco perché il municipio non metta una linea tranviaria dal parco al porto, disse Mr. Bloom. Tutti quegli animali li si potrebbe portare coi vagoni fino alle navi. Invece di impedire la circolazione, disse Martin Cunningham. Giustissimo, lo dovrebbero fare. Sì, disse Mr. Bloom. E un'altra cosa che ho pensato spesso è che dovrebbero mettere dei tram funebri municipali, come a Milano, sapete, prolungare la linea fino ai cancelli del cimitero e fare corse speciali, feretro, carrozza e tutto. Capite cosa voglio dire? Sarebbe un bel lavoro, disse Mr. Dedalus. Carrozza pullman e carrozza ristorante. Magra prospettiva per Corny, aggiunse Mr. Power. Perché? Chiese Mr. Bloom voltandosi verso Mr. Dedalus. Non sarebbe più decoroso che galoppare così a due? Sì, può essere un'idea, concesse Mr. Dedalus. E poi, disse Martin Cunningham, non vedremmo scene del genere di quella del carro che si capovolse all'angolo di Danfi e scodellò la bara per strada. Fu spaventoso, disse il viso sconvolto di Mr. Power. E il cadavere rotolò sulla strada, spaventoso. In testa all'angolo di Danfi, disse Mr. Dedalus, annuendo. Coppa Gordon Bennett, Dio ci scampi, disse piamente Martin Cunningham. Boom! Scodellata! Una bara sfasciata sulla strada, sfondata. Paddy Dignam proiettato fuori a rotoloni, stecchito nella polvere, con un abito marrone troppo ampio per lui. Faccia rossa, adesso grigia, bocca spalancata, che chiede cosa succede ora. È giusto chiuderla, è orribile aperta. E poi le viscere si decompongono rapidamente. Molto meglio tappare tutti gli orifizi. Sì, anche con la cera, lo sfintere rilassato, sigillare tutto. Danfi, annunciò Mr. Power mentre la carrozza voltava a destra. L'angolo di Danfi. Carrozze a lutto ferme ad annegare il loro dolore. Una pausa lungo il cammino. Posizione ideale per una mescita. Mi aspetto che ci fermeremo qui al ritorno per bere alla sua salute. Passare in giro la consolazione. Elisir di lunga vita. Ma supponiamo che succedesse. Farebbe sangue se per esempio un chiodo lo graffiasse mentre lo sballottano? Sì e no, suppongo. Bisogna veder dove. La circolazione si ferma, ma ne potrebbe trasudare un po' da un'arteria. Sarebbe meglio seppellirli in rosso, rosso cupo. In silenzio passarono lungo Fitzborough Road. Un carro funebre vuoto li incrociò al trotto proveniente dal cimitero. Sembra sollevato. Il ponte Crossguns, il canale reale. L'acqua ruggiva precipitando dalle cateratte. Un uomo in piedi in mezzo a blocchi di torba sul barcone che discendeva la corrente. Sul sentiero d'alzaia vicino alla chiusa un cavallo con la pastoia lenta, a bordo del Babau. I loro occhi lo fissavano. Sul pigro canale erboso aveva navigato verso la costa attraverso l'Irlanda, sulla sua zattera tirata da una fune da alaggio, oltre i canneti, sopra la fanghiglia, le bottiglie ingozzate di melma, le carogne dei cani. Athlone, Mullingar, Moy Valley. Potrei fare una gita a piedi per far visita a Milly lungo il canale o andarci in bicicletta, noleggiare un macinino vecchio per sicurezza. Vren ne aveva uno l'altro giorno all'asta, da donna però. Le vie di navigazione interna in sviluppo, il passatempo di James McCann di portarmi in traghetto, trasporto più economico, a piccole tappe, case galleggianti, campeggio. Anche i feretri, per il cielo, via acqua. Forse senza scrivere. Arrivato di sorpresa, Leixlip, Clonsilla, ridiscendere, una chiusa dopo l'altra fino a Dublino, con la torba delle paludi centrali. Saluto. Si era tolto il cappello di paglia marrone per salutare Paddy Dignam. Oltrepassarono la casa di Brian Boroimi, vicini ormai. Chissà come se la passa il nostro amico Fogarty, disse Mr. Power. Meglio chiederlo a Tom Kernan, disse Mr. Dedalus. Cosa dici? Disse Martin Cunningham. L'hai lasciato in lacrime, immagino. Benché lontano dagli occhi, disse Mr. Dedalus, dal cuor non è lontano. La carrozza svoltò a sinistra per Finglas Road, il cantiere del marmista sulla destra. Ultimo giro. Affollate su quella fetta di terra apparivano figure silenziose, bianche, dolenti, tese le mani tranquille, inginocchiate nel dolore, accennanti, frammenti di figure, abbozzate, in bianco silenzio, supplici, il meglio sulla piazza. Tos accadenani, sculture e monumenti funebri. Oltrepassato. Sull'orlo del marciapiede, davanti alla casa di Jimmy Gary, l'affossatore, sedeva un vecchio vagabondo, borbottando, mentre si toglieva terriccio e sassolini da un enorme stivale sventrato color della polvere, dopo il viaggio della vita. Tetri giardini poi sfilarono, l'uno dietro l'altro, tetre case. Mr. Power accennò col dito. Lì è dove fu assassinato Charles, disse, l'ultima casa. Già, disse Mr. Dedalus, un caso raccapricciante. Seymour Barsh l'ha cavato dai pasticci, assassinato il fratello, almeno così han detto. La pubblica accusa non aveva prove, disse Mr. Power. Solo indiziale, disse Martin Cunningham. È il principio della giustizia. Meglio che sfuggano 99 rei piuttosto che un innocente sia condannato a torto. Guardarono la proprietà dell'assassino. Sfilò sinistra, sprangata, disabitata, giardino coperto d'erbacce. Tutto andato al diavolo, condannato a torto. Assassinio. L'immagine dell'assassino negli occhi dell'assassinato. Se la godono a leggerne. Testa d'uomo trovata in un giardino. I vestiti della donna constavano di. Come trovò la morte, subito dopo essere stata violentata. L'arma del delitto, assassino ancora contumace, indizi, una stringa, disposta l'esumazione della salma, sarà fatta luce. Stipati in questa carrozza. Forse non gradirebbe che io arrivassi da quella parte senza avvertirla. Bisogna stare attenti con le donne. Sorprendile una volta con le mutande abbassate, non te la perdonano più. 15. Le alte cancellate di Prospect passarono ondulando sotto i loro occhi. Pioppi scuri, rade forme bianche, forme più frequenti, bianche figure affollate tra gli alberi, forme e frammenti bianchi che muti trascorrevano, mantenendo vani gesti nell'aria. L'orlo della ruota stridette contro il marciapiede. Fermi. Martin Cunningham mise fuori un braccio e, tirando indietro bruscamente la maniglia, aprì la porta con il ginocchio. Scese. Mr. Power e Mr. Dedalus lo seguirono. Cambia posto ora al sapone. La mano di Mr. Bloom sbottonò rapidamente la tasca posteriore e trasferì il sapone attaccato all'involucro nella tasca interna della giacca. Scese dalla carrozza, mettendo a posto il giornale che aveva ancora nell'altra mano. Funerale misero, carro e tre carrozze. Fa lo stesso. Cordoni, redini dorate, messa da requiem, salve d'artiglieria, solennità della morte. Dietro l'ultima carrozza stazionava un venditore ambulante con la sua carretta di dolci e frutta. Biscotti teneri quelli, tutti attaccati insieme, dolci per i morti, biscotti per i cani. Chi li mangia? Gli accompagnatori uscendo. Seguì i suoi compagni. Mr. Kernan e Ned Lambert erano dietro. Heinz li seguiva. Corny Keller si fermò vicino al carro funebre aperto e ne tolse le due corone. Ne porse una al ragazzo. Dov'è scomparso il funerale di quel bambino? Una pariglia di cavalli proveniente da Finglas, con passo penoso, faticoso, passò trascinando in mezzo al silenzio funebre un carro scricchiolante su cui giaceva un blocco di granito. Il carrettiere che marciava in testa salutò. La bara ora, arrivato qui prima di noi, morto com'è. Cavallo che si volta a guardare, col pennacchio a sghimbescio. Occhio opaco, cavezza stretta al collo, gli comprime un vaso sanguigno o qualcosa del genere. Lo sapranno, quel che scarrozzano fin qua tutti i giorni. Ci devono essere 20 o 30 funerali al giorno, poi Mount Jerome per i protestanti. Funerali in tutto il mondo, dovunque, ogni minuto. Li scaricano giù a carrettate, a gran velocità, migliaia all'ora. Troppa gente a questo mondo. Persone a lutto uscirono dal cancello, una donna e una bambina, arpia dal viso smunto. Donna difficile da contrattarci, col cappello di traverso, il viso della bambina macchiato di sporco e di lacrime, appesa al braccio della donna, la guarda in attesa del segnale per piangere, viso di pesce, esangue e livido. I becchini si misero in spalla la bara e la portarono dentro al cancello, tanto peso morto. Mi sentivo più pesante anch'io uscendo dal bagno. Prima lo stecchito, poi gli amici dello stecchito. Corny Keller e il ragazzo seguirono con le corone. Chi è quello accanto a loro? Ah, il cognato. Si incamminarono tutti dietro. Martin Cunningham mormorò: Ho patito le pene dell'inferno quando parlavate di suicidio davanti a Bloom. Cosa? Mormorò Mr. Power. Perché? Suo padre si è avvelenato, mormorò Martin Cunningham. Aveva il Queen's Hotel a Ennis. Avete sentito che diceva che doveva andare nel Clare, l'anniversario? Dio mio, mormorò Mr. Power, la prima volta che lo sento dire. Avvelenato. Lanciò un'occhiata dietro a sé, dove un volto con neri occhi pensosi lo seguiva verso il mausoleo del cardinale. Parlava. Era assicurato? Chiese Mr. Bloom. Credo di sì, rispose Mr. Kernan, ma la polizza era fortemente ipotecata. Martin cerca di far entrare il ragazzo Artain. Quanti figli ha lasciato? Cinque. Ned Lambert dice che cercherà di far entrare una delle ragazze da Todd. Un caso penoso, disse gentilmente Mr. Bloom. Cinque figli piccoli. Un brutto colpo per la povera signora, aggiunse Mr. Kernan. Davvero, convenne Mr. Bloom. È lei che ha avuto la meglio ora. Si guardò le scarpe che aveva fatto lucidare. Gli era sopravvissuta. Perduto il marito, più morto per lei che per me. Uno deve sopravvivere all'altro, dicono i saggi. Ci sono più donne che uomini a questo mondo. Farle le condoglianze. La sua terribile perdita. Spero che lei lo seguirà presto, solo per vedove in due. Ne sposerebbe un altro. Lui? No. Eppure chi lo sa dopo? La vedovanza non è più di moda da quando la vecchia regina è morta. Trainata su un affusto di cannone, Vittoria e Alberto. Funzione commemorativa a Frogmore. Ma alla fine si mise qualche violetta sul cappello, vanitosa nell'intimo del cuore. Tutto per un'ombra. Consorte, neppure re. Suo figlio era la sostanza. Qualcosa di nuovo in cui sperare invece di quel passato che lei rivoleva indietro, in attesa. Non viene mai. Uno deve pur andarsene per primo, solo, sottoterra, e non giacere più nel caldo letto di lei. Come va, Simon? Disse a bassa voce Ned Lambert, stringendogli la mano. Sono secoli che non ci si vede. Meglio che mai. E che si combina nella vecchia Cork? Ci sono stato per le corse di Cork Park il lunedì di Pasqua, disse Ned Lambert. I soliti 6 scellini, 8 pence. Mi sono fermato da Dick Tivy. E come sta Dick, l'uomo tutto d'un pezzo? Non ha più niente tra la testa e il cielo, rispose Ned Lambert. Per San Paolo, disse Mr. Dedalus con sommessa meraviglia. Dick Tivy pelato? Martin aprirà una colletta per i ragazzi, disse Ned Lambert, accennando avanti a sé. Qualche scellino a teschio, tanto da mandare avanti la baracca fino a quando potranno riscuotere l'assicurazione. Sì, disse dubbiosamente Mr. Dedalus. Quello davanti è il figlio maggiore? Sì, disse Ned Lambert, con il fratello della moglie. Dietro c'è John Henry Menton. Si è quotato per una guinea. Ci credo, disse Mr. Dedalus. Glielo dicevo spesso al povero Paddy di tenersi caro quell'impiego. Ci sono padroni peggio di John Henry. Come fu che perse il posto? Chiese Ned Lambert. Beveva, no? Ce l'hanno molte brave persone quel vizio, disse Mr. Dedalus con un sospiro. Si fermarono davanti alla porta della cappella mortuaria. Mr. Bloom, ritto dietro il ragazzo della corona, guardava i suoi capelli pettinati, lisci, e l'esile collo incavato dentro il colletto nuovo di zecca. Povero ragazzo. C'era quando il padre, tutti e due privi di sensi, ravvivarsi all'ultimo momento e riconoscere per l'ultima volta tutto quello che avrebbe potuto fare. Devo Trascellini O'Grady, avrebbe capito. I becchini portarono la bara nella cappella. Da che parte è la testa? Dopo un istante seguì gli altri nell'interno, strizzando gli occhi nella semioscurità. La bara giaceva sul catafalco davanti al coro, quattro lunghe candele gialle agli angoli, sempre davanti a noi. Corny Keller, dopo aver deposto le corone ai due angoli anteriori, fece cenno al ragazzo di inginocchiarsi. Gli altri si inginocchiarono qua e là nei banchi. Mr. Bloom rimase indietro, vicino al fonte battesimale, e quando tutti si furono inginocchiati, fece accortamente cadere il giornale spiegato dalla tasca e ci si inginocchiò sopra col ginocchio destro. Cauto, posò il cappello nero sul ginocchio sinistro e, tenendolo per la falda, si inchinò piamente. Un chierichetto, portando un secchiello di ottone con qualcosa dentro, comparve da una porta. Il prete bianco vestito lo seguì, aggiustandosi la stola con una mano, tenendo in bilico con l'altra un libriccino contro il pancione da rospo. Chi il libro leggerà? Io, disse la cornacchia. Si fermarono vicini al catafalco e il prete cominciò a leggere dal libro, gracchiando a distesa.